di buon umore. Forse perché ho il raffreddore, oppure perché faccio roba che scevorebbe Cristo Salvatore. Sta di fatto che in questo pezzo volevo comunicarvi una cosa molto importante. E, insomma, questa cosa è... Spacco tutto quanto. Ok, siamo arrivati alla prima strofa. Mamma che bello, mamma quanto sono emozionato, perché spacco tutto quanto, mi sento già crivellato. Comunque, stanno le cose, qui non sono mica fiori e rose, anzi sono spine, davvero potenti, pezzenti, fanculo a tutti quanti. Spacco tutto quanto, nella seconda strofa dico quello che c'era nella prima, ma lo dico in modo diverso perché sto improvvisando da ieri mattina. Ma che cazzo dico a fare queste cose che vogliono ascoltare? Il pubblico mi guarda incazzato, ora mi tirano addosso qualcosa, corpo del reato, ortaggi vari, bombolette anche sassi, caglia che male, dai, non farlo perché sennò finisce che vado all'ospedale. Non è una cosa bella, intanto il microfono fischia e che cazzo, non mi piace mica tutto questo. Sono Fabio, mica sono Francesco, ma faccio tutto quanto. Thank you.